X24 di Giovanni Minoli. Signor Presidente della Repubblica, sono sempre stato un ragazzo molto vivace, un po' ribelle, nella vita ho fatto di tutto, ma la mia passione più grande è sempre stata la musica. Tutto questo con una persona speciale, Valeria, la mia ragazza, che ora mi presta la sua voce per rivolgermi a lei, signor Presidente, perché io faccio molta fatica a parlare. Il 13 giugno 2014 sono diventato cieco e tetraplegico a causa di un incidente in macchina. Non ho perso subito la speranza, però. In questi anni ho provato a curarmi, anche sperimentando nuove terapie, purtroppo senza risultati. Da allora mi sento in gabbia. Non sono depresso, ma non vedo più e non mi muovo più. Da più di 2 anni sono bloccato a letto, immerso in una notte senza fine. Vorrei poter scegliere di morire senza soffrire. Volevo ringraziare una persona che purtroppo questa persona si chiama Marco Cappato. Ecco, Marco Cappato, buongiorno, tesoriere dell'associazione Luca Coscione, presidente dei Radicali. Questo saluto finale di DJ Fabo, naturalmente, è un grazie pieno di responsabilità. Beh, certo, Fabo si è rivolto a me proprio perché le responsabilità dell'aiuto che chiedeva non ricadessero sulle persone che amava. Io gli ho detto che lo avrei aiutato comunque, ma che sarebbe stato un aiuto per tutti, per tutta l'Italia, se avesse voluto raccontare la propria vicenda. È stato felice di farlo, anche, non so, forse l'illusione o la speranza che abbia resistito qualche settimana in più. Ecco, questo è un po' quello che lei ha detto, no? Che c'è stata una resistenza forse addirittura superiore, dovuta alla voglia di aiutare a affrontare questo problema in modo radicale. Certo, perché ecco, non c'è stata alcuna istigazione, visto che poi si parla anche di possibili reati, anzi fino all'ultimo momento tutti gli abbiamo detto: se tu dici torniamo indietro, ovviamente. E lui non ha mai avuto ripensamenti? Non ha mai, non solo, ma era anche infastidito, quasi nervosito di questo continuo richiamo che gli facevamo, la possibilità di tornare indietro. A un certo punto aveva proprio il terrore di non riuscirci, perché essendo completamente paralizzato e dovendo azionare questo pulsante col movimento della bocca, era veramente la sua unica paura. Quando ha visto che ce la faceva, ha fatto una prova, ha visto che ce la faceva, allora si è rilassato, ha cominciato a scherzare, ha raccomandato agli amici di mettersi la cintura quando vanno in macchina, ha potuto scambiare le parole di amore, di ricordo di una vita con chi gli stava a fianco, proprio perché sapeva che a quel punto quella che per lui era diventata una condizione insopportabile. Attenzione, perché spesso si dice che noi la riteniamo una vita indegna di essere vissuta. Nessuno ritiene la vita di una persona disabile, meno che mai una persona disabile grave, indegna di essere vissuta. Certo. Ma è la valutazione che quella ciascuna persona fa, è quella che diciamo la soglia dietro la quale ritengo che ciascuno si debba fermare. Poi magari in quella condizione altri farebbero altro. Non è un modello DJ Fabo, non voleva essere modello, non era una bandiera. Ecco, non si sentiva per niente una bandiera, ma era la scelta della sua vita. Lui mi ha detto: ma io non neanche sapevo questo problema, l'eutanasia, no? L'ho scoperto perché sono si è trovato in mezzo. Perché sono qui, no? Pier Giorgio Welby mi aveva per una vita scritto, trattato il tema, Fabo assolutamente no, e questo era il suo grido. Tra l'altro mi diceva: guarda che io qui al Giambellino, al mio quartiere, conosco tutti, se tu non mi aiuti, io, uno che mi tira un colpo di pistola, lo trovo. Questo era il livello di esasperazione a cui arrivava. E quindi negli ultimi giorni, invece, quando ha fatto la prova, che ha visto che poteva fare, si è sentito più rilassato? Era comunque comunque una persona che riusciva a scherzare e a prendere in giro gli amici, si insultavano, siamo usciti un paio di volte a Milano in condizioni per lui veramente difficilissime, però andava al suo locale sui Navigli, si faceva mettere un po' di sambuca in bocca per assaggiarla, rideva, non era una persona malinconica, depressa, e soprattutto non chiedeva pietà, compassione, anche l'amore per la sua ragazza era rimasto quello dello scherzo, di persone diciamo di pari livello e grado, ecco, di massima e totale dignità della persona, e proprio in quelle condizioni, cioè quando una persona invece magari è depressa perché è insoddisfatta della vita, perché c'ha qualche problema che potrebbe essere risolto, curato, ovviamente non è che noi diciamo ah sì, allora l'eutanasia, no? Non è la soluzione, ci sono malati che se fossero curati adeguatamente potrebbero benissimo, invece di chiedere l'eutanasia chiedono cure adeguate. Del dolore cambi idea, ma non solo, ma poi c'è la scienza che avanza, e quindi cose che sembrano incurabili possono diventare invece curabili. E quindi lui non ha mai manifestato però ripensamenti con lei sulla sua decisione? No. Tra l'altro la procedura in Svizzera prevede proprio che oltre a tutta la volontà che ci vuole per andare là, quindi certo, i documenti, le cartelle cliniche da inviare, i soldi da inviare, perché certo, ci sono costa anche due visite mediche, la persona viene lasciata con il medico proprio per evitare che ci siano altri attorno che condizionino, come magari invece accade con l'eutanasia clandestina, cioè dove non ci sono regole, certo, ci può essere il parente avido che si vuole liberare del malato, dell'anziano, e magari gli dice ma guarda questa sofferenza, non sopportarla più, no? Togliti dalle scatole. Ecco, l'eutanasia clandestina è fatta di disperazione e di non assistenza. Le regole servono esattamente ad avere al tuo servizio tutte le persone che ti possono aiutare sia a compiere scelte di vita, sia di interruzione. Non c'è contraddizione tra rispettare le scelte, ecco, di vita e le scelte di interruzione della vita delle persone. Cappato, lei ha parlato prima di Pier Giorgio Guelmi, no? che lei ha sostenuto a scegliere la morte. Ecco, che differenza c'è tra il caso di Guelmi e questo? Questo è stato un incontro non ragionato, diciamo così? Ma no, sul piano, diciamo così, morale, a mio avviso non c'è alcuna differenza, perché c'erano due persone in condizioni di sofferenza insopportabile. Certo, Welby aveva per più tempo elaborato anche filosoficamente, politicamente, certo, il problema, ma entrambe volevano andarsene, ma come? Senza soffrire, perché Welby poteva attaccare un respiratore quando voleva, sarebbe morto soffocato. Diciamo che la fine dignitosa è una scelta di libertà anche in qualche modo. Sì, il problema è che nel caso di Welby è bastata, tra virgolette, la sedazione e il distacco del respiratore perché era attaccato a una macchina. Sì. Ecco, la situazione legislativa italiana è così, non so, non la voglio definire, se tu sei attaccato a una macchina, a una terapia vitale, hai il diritto di interromperla, lo riconosce la Costituzione, quindi sì, hai un diritto, diciamo, omissivo quasi, no? Tu puoi lasciarti morire se sei collegato. Se invece tu, come un malato di cancro o come DJ Fabo, non hai una macchina dalla quale staccarti, non importa se la tua sofferenza è ancora superiore, ecco, no, Marco, lo Stato si gira dall'altra parte e non dice, guarda. Ecco, Marco, il padre di Luana, Beppino Englaro, ha sottolineato la differenza tra il caso di sua figlia e quella del DJ Fabo, dicendo che quello di Luana era un diritto costituzionalmente riconosciuto, cioè la libertà di dire no all'offerta terapeutica. Lui invece, cioè Fabo, ha bisogno di una medicina per morire, e questo è un reato. Lei ne ha parlato con Beppino Englaro? Ne abbiamo parlato più volte. Beppino Englaro ha ragione nel descrivere la situazione attuale, e infatti noi stessi, aiutando Welby, abbiamo percorso la legalità. Questi 10 anni che sono passati da Welby a oggi sono serviti a creare un precedente giurisprudenziale importantissimo, tanto che oggi nel caso di Piludu, per esempio, a Cagliari, un tribunale ha ordinato alla ASL il distacco del respiratore, quindi sono stati fatti grandi passi avanti. Ecco. Quello che però per me è importante è oltre a ciò che è legale oggi, ciò che deve divenire legale, cioè che cosa cambia da un punto di vista morale, etico, politico, se stiamo riconoscendo a una persona il diritto di sospendere, di interrompere quella che è diventata per lui una tortura. Naturalmente, questo è il punto. Se la tecnica è una tecnica omissiva o una tecnica attiva, io credo che al centro ci debba essere la volontà della persona, non senta, la modalità di un'eventuale senta, morte. Cappato, lei sa bene, lo dicevamo prima, che la scienza procede a salti, che oggi quello che appare impossibile un minuto dopo diventa possibile. Da questo punto di vista, lei dubbi non ne ha avuti? Torniamo a Fabo, lui ha fatto di tutto, sì. È anche andato in India a cercare di percorrere una terapia sperimentale, solitamente sono delle truffe, lo diciamo certo, anche per i nostri certo. ascoltatori staminali, esatto. Staminali sono la fondamentale lotta di Luca Coscioni, la nostra battaglia per la di ricerca, ma non esisteva una soluzione per una condizione come la sua, lui si è battuto al massimo anche per la cura. Ma le terapie, tutti i medici gli hanno detto che non ci sono, lei adesso si è autodenunciato. Oggi pomeriggio si autodenuncia. E che cosa può accadere? Ma in Italia la istigazione o aiuto al suicidio è punito da 5 a 12 anni di carcere. Istigazione qui non c'è alcun tipo di istigazione, semmai certo, un tentativo di dissuasione. Di frenare, l'aiuto, sì, perché io sabato mattina ho caricato Fabo sulla sua macchina, con la sua carrozzella, e per 5 ore di un viaggio francamente straziante, perché vi pare che una persona in quelle condizioni debba affrontare 5 ore di macchina con le soste, vabbè. Non... D'accordo, vabbè, questo è, immagino che sia stato lungo e drammatico. E quindi ho fornito questo aiuto, A questo punto voglio chiedere allo Stato italiano di scegliere una delle due, o fare finta di nulla, girare la testa dall'altra parte, come dire, se vai in Svizzera lo puoi fare, faccio finta di non vederti, allora questo però servirà precedente anche per altri, oppure incriminarmi, allora io vorrei poter difendere in un processo le ragioni di principi costituzionali superiori, quelli di libertà, di responsabilità, a un codice penale che non fa nemmeno distinzione tra appunto il suicidio per un momento di disperazione e l'aiuto a un malato nelle condizioni di Fabo. Ecco, lo Stato si deve assumere le sue responsabilità. E quindi oggi pomeriggio lei si autodenuncia alla Questura di Milano, immagino, no? Sì. Non so, ecco. E per chiudere, Enrico Mentana nel suo telegiornale ieri non ha dato le dichiarazioni dei politici in relazione a questo caso come segno di protesta per l'immobilismo rispetto alla legge che è ferma da 8 anni, 9 anni, non so quanti. Ecco, è un esempio, insomma, una strada in qualche modo. Ognuno come può. Ecco, vorrei però che nel dire questo, so che sembra un po' una cosa da Asterix, no? Quasi tutta la Gallia, ecco, diciamo quasi tutti i politici, perché nel fare quello che sto facendo è vero che non è fatto per, diciamo, occupare una poltrona o per chiedere, certo, un voto, chiarissimo. Però questa è politica, certo. Anzi il motto della nostra associazione Luca Coscioni è dal corpo del malato al cuore della politica, va bene quello che dice Mentale, certamente, devo però fare notare che da 10 anni, da Welby ad oggi, io non ho assistito ancora a un dibattito televisivo che non fosse di cronaca dietro a un caso personale, delle ragioni a favore e delle ragioni contro alla legalizzazione dell'eutanasia, come ci sono in Francia, in Gran Bretagna, certo, negli Stati Uniti, cioè sì. L'istinto. Lei è giovane, ma noi l'abbiamo fatto, amici, ma comunque questo non è importante. Ok, parlavo quasi di dibattito, diciamo, collegato alla realtà politico-istituzionale, certo. Questo va volevo bene, dire, Minoli, nel naturale. Senso che quasi come se ci sia da una parte la politica che ti racconta le scissioni, i partiti, ma d'accordo, e poi dopo i contenuti. Che invece sono politica. No, sono super politica. C'è stato il Cardinal Tonini che nel dibattito che appunto abbiamo fatto sull'eutanasia ha detto Cari ragazzi, sappiate, e parliamo di 20 anni fa, questi sono i temi sui quali si farà politica nei prossimi anni. È così, è vero. Grazie, grazie Cappato. Grazie a voi. Grazie mille. Mario, ecco, su Twitter abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se la possibilità di scegliere come morire è un diritto in qualche modo da rivendicare. Il 95%, praticamente quasi tutti, hanno risposto di sì. Tu che pensi? Allora, prima di tutto onore ai radicali. Sì. Perché è una cosa veramente politica, come hai sottolineato tu, e quindi bene. E secondo, io penso questo, che mai come oggi mi echeggiano in mente da ieri, da 48 ore, le frasi che lessi di Albert Camus nel mito di Sisifo, e cioè queste: l'unico vero problema filosofico serio sul quale discutere è il suicidio. Certo. È il suicidio, e io sto fermo a questo, cioè penso che sia senza un grande dilemma, un grande dilemma, sì, ecco, sì, però una cosa vera, certo. Ecco, Pietrangelo, il dibattito in Italia è certamente anche influenzato dalla religione cattolica, la più diffusa. Ecco, l'Islam come legge situazioni così? Le legge in un modo parimenti sacrale a quello della religione cattolica, nel senso che la sfida titanica, sia essa quella di negare la morte o quella di allungare la vita, è considerata empia, perché tutto ciò che accade, tutto ciò che si realizza, è sempre deciso ab eterno da Dio. Quindi la valutazione è analoga. C'è solo questa differenza, e che viene considerata titanica e quindi empia l'idea stessa di stiracchiare, di accanirsi. Quindi contro l'accanimento terapeutico. Decisamente, perché c'è questa differenza. Però posso dire ma l'accanimento terapeutico in discussione. Il verso coranico è ben chiaro. Dice: da Dio veniamo, a Dio torniamo. Però siccome si è scatenata la tifoseria, vorrei ricordare adesso agli ascoltatori che bisogna ringraziare la comunità cattolica, perché le sue istituzioni, quelle ospedaliere, sono ancora le stesse di quando Francesco abbracciò il lebbroso. Se non ci fosse stata l'istituzione cattolica, sicuramente in Italia quell'idea di carità e quell'istinto di soccorso non avrebbe avuto luogo. E anche di della morte. Certo. Vincenzo Paglia, arcivescovo, presidente della Pontificia Accademia della Vita, autore del libro Sorella Morte, in cui affronta anche il tema dell'eutanasia. Ecco, Monsignor Paglia, lei ha detto che la storia di J. Fabo dovrebbe farci interrogare, ma interrogare esattamente su cosa? Dovrebbe farci interrogare su quale società noi stiamo costruendo, perché se Fabo arriva a dire non ce la faccio più, in realtà lui voleva vivere, era una grande domanda d'amore, una grande domanda di senso a cui la società non ha saputo rispondere e ha preferito andarsene. Ecco, ma cosa avrebbe voluto dire a Fabiano prima di morire, se avesse potuto? Anzitutto avrei cercato di volergli bene, di amarlo, di sostenerlo. Certo, è importante arrivare in tempo, arrivare prima, perché non è una questione di tecniche che possono cambiare l'esistenza. C'è bisogno che l'amore aiuti a capire che l'uno è importante per l'altro e che lui è importante per tutti noi. Però Fabiano era circondato d'amore, poi però era solo nella scelta di non soffrire più, non aveva il diritto. Infatti il problema non sono i familiari, i quali credo vadano lodati, vadano sostenuti anche in questo momento. Io credo però che è la cultura che lascia soli, che è un modo di pensare che impedisce di allargare il proprio cuore. Cioè, Madre Teresa che dice che la malattia del nostro tempo è la solitudine, è questo? Esattamente. Noi abbiamo tantissimi malati di solitudine. Spesso, anche quando si sta bene, si è talmente soli e qualcuno pensa anche ad andarsene. La vera medicina è l'amore. L'amore non è una parola romantica. L'amore è fatto di passione, di fatica, anche di responsabilità, a volte di non saper neanche cosa dire. Ma una cosa certo suggerisce: non abbandonare mai l'altro e far capire che tu sei importante. Ci sei. Per lui. Ecco, però è vero che ognuno di noi è indispensabile all'altro, come dice lei, per dare un senso anche alla propria vita. Però Gesù ha detto: ama il prossimo tuo come te stesso, non di più. non ci chiede eroismo neanche per amare, se uno non se la sente più. Ma il problema è esattamente questo, scendere in profondità nelle nostre parole. E questo è il senso dell'affermazione di Gesù. Amare gli altri come se stessi vuol dire volere una vita bella, piena, nonostante tutto. E sì, questo chiede a noi sani di saper capire e di saper spendere molto di più di quel che normalmente facciamo, ecco, per aiutare anche gli altri. La vita ci viene data, noi non possiamo togliercela, dite voi. Però abbiamo anche il libero arbitrio che ci consente di scegliere il male minore per noi. Ecco, l'accanimento terapeutico, che è quello che poi è in discussione in questi casi, in realtà, può essere il male peggiore, non il male migliore. E allora? Intendiamoci, persino Pio XII diceva che l'accanimento terapeutico va evitato, perché è inutile accanirsi in una situazione difficile. E io credo che dobbiamo distinguere, ad esempio, anche di spingere una lotta al dolore, alla sofferenza, perché questa va evitata. Appunto. La sofferenza va comunque attutita. In questo senso parliamo di una possibilità assolutamente importante da portare avanti, e su questo dobbiamo essere tutti consapevoli. Purtroppo vedo in giro, anche per esperienza personale, tanti abbandoni terapeutici. Certo. Altro che accanimento. Lei cita nel suo libro una frase di Luciana Castellina dopo il suicidio assistito proprio in Svizzera di Lucio Magri. E la Castellina dice: vuol dire che il tuo dolore conta di più del dolore che procuri. Però questo può essere che sia così. E allora? A me impressiona il fatto che spesso si consideri la propria vita come assoluta, nel senso che ognuno è una monade. In realtà non è così. Ciascuno di noi è legato all'altro. Nessuno ci impedisce ovviamente di toglierci la vita, se vogliamo. Chiederlo che lo facciano altri in tuo luogo è un altro discorso. E in ogni caso quel che ci è chiesto è che l'amore sia davvero vicendevole. Ma come in questo senso concepire la libertà di se stessi in maniera assoluta rischia di essere una pericolosa deriva, perché anche altri hanno avuto la libertà e il libero arbitrio di fare stragi e di creare conflitti. Ma come fa una legge dello Stato però a permettersi di regolare situazioni così complesse e così drammatiche? Noi rischiamo di affidare ad una legge fredda, in poche righe, situazioni diversissime che comunque richiedono una responsabilità degli amici, del medico, dei familiari, di tutti. Io mi augurerei che in Italia si facesse un dibattito molto più ampio su queste questioni, e non solamente in momenti particolari che la cronaca suscita. Insomma, noi chiediamo aiuto e consiglio per scegliere un lavoro, e di fronte a decisioni così drammatiche vogliamo una legge evitando discussioni, pareri, consigli anche degli amici più cari. Lei è stato con Marco Pannella, che era un suo amico, fino alla fine. Avete mai parlato dell'eutanasia? Sì. Dunque, noi abbiamo parlato della morte, dell'eutanasia mai. Abbiamo parlato dell'indebolimento della nostra vita. E una cosa per lui era molto chiara, e anche per me: starci accanto gli uni agli altri, tenerci per mano. E a volte scherzavamo quando lui mi abbracciava e mi diceva: certo, Don Vincenzo, se i miei amici vedessero come abbraccio un monsignore. E io dicevo: e i tuoi? E i miei? Era un modo per sottolineare l'importanza dei legami. Marco è stato accompagnato anche dai suoi amici fino alla fine. Al termine ha avuto una situazione del dolore che non ha causato la morte. La malattia aveva fatto ormai il suo corso, sentiva dolori gravissimi, allora è stato sedato. È stato lasciato, sì, andare, che è insomma. La stessa esperienza del cardinale Martini. Ecco. Cioè, ma perché non può essere vista così anche la scelta di Fabiano? E perché la scelta di Fabiano in realtà è una scelta di troncare la vita. E questa è la differenza. Beh, il senso di quella vita per lui non c'era più. Questo è il problema. Io qui, che quello, quando dicevo che c'era una profonda domanda di senso, io intendevo dire esattamente questo: chi dice che non ha senso una vita anche in condizioni difficili? Certo, se la cultura non lo aiuta, se la cultura non ci aiuta, può non aver senso anche la vita di un bambino di 14 anni a cui è stato inculcato che la promozione è la cosa più importante della vita, e lui magari bocciato decide di togliersela, magari gettandosi dalla finestra. Ora, per questo secondo me c'è una responsabilità della cultura che deve aiutare a capire che una vita ha sempre senso, una vita ha sempre una missione, anche nei momenti più difficili bisogna aiutarci a scoprirla, bisogna aiutarci a viverla, e questa è una società che è solidale davvero, davvero umana, perché aiuta a vivere e non a morire. Ecco, vorrei in chiusura leggere un sms di Alberto Arlotti che ci dice: caro Minoli, perché radio e televisione danno così poco spazio ai radicali che i temi politici veri li hanno azzeccati tutti anni e anni prima della loro esplosione, i migranti, la bioetica, la corruzione, il sistema giudiziario, l'Europa, eccetera. Beh, insomma, c'è del vero, e quindi è una sorta di autocritica quella che facciamo, è un impegno a trattarli per davvero. 800 24 00 24, numero verde, 349 238. Mix 24. Pietrangelo, allora che sentiamo oggi? Eccola. The children are all leaving school today. Mama said, don't worry, I'll be back one day. The blue men in uniform smile and wave goodbye. She was hiding those tears in her eyes. Allora, Pietrangelo. E allora stamattina le Moire avevano un grande affare. Arrotolavano i libri di storia, davano fuoco alle masserizie, affilavano i fusi per poi tessere trame splendenti di vita. Ha chiamato la fata delle ginestre, ha chiesto questo brano per il poeta Lucio Piccolo con un messaggio: prendi la vita tra le mani, troverai un elfo assai sapiente di puro nulla. Mama said you take your life in your hand, taking your life, life in allora your... Mario, musica epica stamattina, sì. Ma tanti polmoni, e andiamo in America, però musica italiana. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa. Questi può sono cambiare? I Calibro 35, sono bravissimi. Un'interpretazione un po' vintage di un pezzo bellissimo che si chiama L'Appuntamento. Inutile dirvelo, sentiamo ancora 5 secondi. Sono triste tra la gente che mi sta. Allora, Giovanni, andiamo. C'è un appuntamento importante oggi sul piano dell'agenda globale. Sì. Che è poi il discorso che farà Donald Trump al Congresso riunito. È primo appuntamento importante di fronte al Parlamento americano, importante per la politica, certamente sul piano istituzionale, ancor di più per i mercati, che ieri hanno chiuso la 12ª seduta record, cioè macinato su macinato, macinato, appunto il massimo degli indici. Non accadeva dal 1987, i mercati europei hanno aperto bene stamattina, vediamo se continuano, però la cosa interessante è capire se questo rally ha un futuro o no. È un futuro con queste dimensioni? È molto grande. Buffett dice di sì, però... anche Buffett sbaglia. Sì. Nella sua lettera annuale agli azionisti ci sono un paio di episodi che lui ricorda in cui ha sbagliato, pagando contanti per azioni, azioni per azioni e così via. Però vediamo che cosa succede. Una cosa è certa, la fase di trading su Trump, che è una fase ormai lunga, praticamente dall'8 novembre che il mercato guadagna, è entrata in un'altra fase, cioè dalla promessa all'esecuzione, diciamo così. Trump è legato inesorabilmente all'accelerazione del suo programma. Se rallenta, se il Parlamento non diciamo mette in movimento quello che è il suo piano fiscale di investimenti nelle infrastrutture, secondo me potrebbe esserci una correzione anche brusca del mercato. Tieni presente poi che sta cambiando la politica monetaria delle banche centrali, quindi ci sarà un rialzo degli interessi negli Stati Uniti. Insomma, Wall Street è il più grande alleato di Trump. Paradossalmente potrebbe diventare un problema se il mercato cresce, però non lo sappiamo, nessuno lo sa. Tutti quelli che dicono crolla, crolla, tirano il discorso, il discorso all'Unione sarà molto importante per vedere un altro pezzo della strategia di Trump. Sì, sarà importante per vedere un altro pezzo della sua strategia, soprattutto rispetto alle tasse. Sì, perché poi alla fine, vedi Giovanni, tutte le polemiche, le cose, lui adesso fa un aumento della spesa della difesa e naturalmente gli spiriti belli dicono il guerra fondaio. Allora mettetevi d'accordo, se non fronteggia la Russia, che ha ampliato la spesa degli armamenti in una maniera incredibile, voi neanche lo immaginate, prendete i dati del SIPRI di Stoccolma se non mi credete, e dicono non fai niente. Se aumenta la spesa degli armamenti dicono no, però sei un guerrafondaio, è una visione rozza della politica americana. La realtà è che Trump sta andando alle origini del vecchio GOP. GOP è Grand Old Party, il partito repubblicano, e che aveva esattamente questa piattaforma politica. C'è un saggio bellissimo scritto sulla Claremont Review, che nessuno o quasi conosce in Italia, ma è molto importante, proprio su questo punto. Racconta qua. Questo. Esatto. Va bene. Lo leggeremo. Saladino. Lo traduco io, guarda, va bene. Sovranisti con la corona degli altri. Però Giovanni, tutta colpa di Mix 24. Sempre. Passa, no. Certo, perché passa da questi microfoni Luca Zaia, governatore del Veneto, certo. E si trova la soluzione alla crisi del centrodestra. Un sovrano che mette d'accordo tutte le corone, quelle degli identitari, quella dei moderati e quella dei liberali. La classifica del Sole 24 Ore indica Zaia tra i primi presidenti di regione più graditi ai cittadini, l'altro è Roberto Maroni, il lombardo, ma proprio su Zaia, tutta colpa di Minoli e degli ascoltatori che vogliono discutere l'idea, si apre il dibattito. Ecco il futuro candidato premier del centrodestra che sarà, però, come si suol dire, sovranisti con la corona degli altri. Arriva alle orecchie l'idea, orecchie peraltro non piccole, quelle di Silvio Berlusconi, e questi, sovrano a dispetto dei sovranisti, dopo aver cestinato Stefano Parisi, dopo aver sabotato Guido Bertolaso, dopo aver tentato Paolo Del Debbio, dopo aver proposto Bruno Vespa, dopo aver illuso Daniela Santachè, dopo aver dismesso Angelino Alfano, dopo aver capito di non poter cavar nulla da Matteuccio suo, Matteo Renzi va da sé, fiuta l'idea più che percorribile del sovranismo con tutte le corone e lancia anche lui l'idea di Zaia, futuro candidato del centrodestra, a meno che non gioco più. Wow. Che bella. A meno che la Corte di Strasburgo non gli dia finalmente l'attesa agibilità politica per candidarsi lui e farselo da solo il sovranismo con tutte le corone di casa propria. Alti sono i lai intanto. La proposta di Berlusconi suona come un'ingerenza in casa leghista. I fedelissimi di Matteo Salvini, il capitano, tutti sovranisti in cerca di corona, si stringono intorno al loro capo. Capitano, lo posso dotturare? Lo stesso Zaia, lo stesso Zaia, memore di Del Debbio, Vespa, Bertolaso, Parisi e chi più ne ha più ne metta dice no, anzi ribadisce, il candidato è Salvini. Gli altri sovranisti, ovvero Giorgia Meloni, lo stesso Giovanni Toti, governatore di Liguria e pur sempre forzista, un poco parlano e un poco no, perché insomma nella casa del re beato è chi già c'è. È l'unico sovrano, sovranista di suo, resta sempre zio Silvio, che ha pur sempre il sole in tasca. E lui, dopo tutto, che cos'è? È pur sempre quello il cui paese suona. E quindi? Zio Silvio. Cioè, no, perché io volevo, diciamo, a conclusione. Conclusione è il posteri l'ardua sentenza. Hard Rock, vabbè, mi hai lasciato l'opera in fieri. Vabbè, perché è la puntata mica è finita, questa è una telenovela che dura. Alla prossima puntata, un'altra bolla. Sì. Riportiamo le filosofie in cantina. Ascoltate le parole. Con le religioni e la PlayStation 2. Sillogismi e imperativi hanno fallito. Come il sol dell'avvenire, così sia. Continuiamo ad inventare dimensioni. Dopo il cubo, l'ipercubo e così via. Dopo il cubo, l'ipercubo, caro Giovanni. È molto carina questa canzone dei Cani. Non finirà mai. Senti. Non finirà mai. Ehi, però c'è una storia che è finita. Ho scelto questa canzone con questo titolo perché incredibilmente, secondo me, è un segno dei tempi. Volevo discutere con te e con Pietrangelo. Con Pietrangelo per competenza geografica, con te per competenza tecnica e con me stesso per pura curiosità da cronista. Quale sono? Innata sapienza. Zamparini vende il Palermo agli angloamericani. Ora, voi ditemi se questo non è un segno inequivocabile del cambio del calcio. Intanto è un segno del fatto che non ci sono più allenatori da cambiare, quindi dopo 50 ha detto basta. Ma a parte gli scherzi, è un segno dei tempi sul serio, perché il calcio in realtà è la cosa più globalizzata che c'è. E dato che i cinesi si sono candidati anche a Davos ad essere i leader della nuova globalizzazione, e partono dal pop vero, e il pop vero è il calcio, con i diritti che conseguono per le televisioni di tutto il mondo. Senti, Pietrangelo, ma a Palermo cosa dicono di questa cosa? Che beh, sono abituati alla regola degli americani. Non così, non lo so, io lo so fare. E allora non lo io ti posso ti posso fare il sardo se vuoi. Senti, vabbè, intanto... E tanto a Palermo. Che dici? Cosa dicono a Palermo? E sono contenti. Che se ne va? E certo. Perché? Perché appunto già c'è la disoccupazione. Se tieni a Palermo uno che non fa altro che licenziare, la logica ci accompagna. Però veramente è una cosa incredibile. Canzoniere. La democrazia. Questa parola affatata. Questa parola di luce, questa parola illuminata, questo lampadario di parola. Il mondo, questa democrazia che dice, questo uomo con tante di barba che parlano di questa democrazia. Cos'è? 800 24 0024, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Una domanda davvero interessante. Chiedo scusa. Viabilità. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Mix 24. Ero nella mia auto di servizio con un altro poliziotto quando fummo fermati da una persona che ci disse che c'erano stati degli spari dietro l'angolo. Ci dirigemmo con l'auto sul posto e quando arrivammo c'erano una decina di persone in circolo e nel mezzo c'era un uomo disteso supino in terra e c'erano due persone che gli praticavano un massaggio cardiaco. Dietro queste persone c'era una donna che urlava sconvolta. Tentai di parlarle e infine mi disse: sono Lisbeth Palmer, la moglie di Olof Palme, ed è Olof Palme l'uomo colpito. Il 28 febbraio del 1986, Olof Palme, primo ministro svedese, viene ucciso per strada, nel centro di Stoccolma, appena uscito dal cinema con la moglie. Aveva lasciato l'ufficio alle 17.45, dopo una giornata di lavoro in cui si era occupato della stesura del suo discorso per la conferenza di pace e della preparazione del suo viaggio ufficiale per Mosca. Aveva poi deciso di raggiungere casa a piedi, tra la gente, senza avvisare la scorta. Storico leader socialdemocratico, Palme era un pacifista impegnato nella lotta all'apartheid. Contro le disuguaglianze globali, era sostenitore di una politica di intervento dei paesi ricchi in favore dei poveri. Olof Palme è vittima di un giallo che ancora oggi, dopo 30 anni, resta irrisolto. E allora chi ha voluto la morte del primo ministro svedese Olof Palme? Un giallo internazionale. Dopo il giornale radio, per i gialli della storia, racconteremo questo caso. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine, novembre 2016. Lo stato di salute nel tempo dei sopravvissuti al cancro, diagnosticato in età pediatrica. Noi sappiamo che la sopravvivenza a 5 anni, e 5 anni è il tempo standard che viene calcolato per valutare la sopravvivenza da un cancro, è aumentata nei cancri diagnosticati in età pediatrica. Questo negli ultimi anni rispetto a 40-50 anni fa. Ma qual è lo stato di salute di questi sopravvissuti? Uno si è fatto un cancro in età pediatrica, è sopravvissuto per un periodo sufficientemente lungo, come sta? E allora sono stati valutati 14.000 adulti con un'età media di 27 anni che avevano avuto un cancro appunto in età pediatrica ed erano sopravvissuti. Si sono paragonati due periodi diversi, quelli che avevano avuto un cancro diagnosticato negli anni 70 e quelli che avevano avuto un cancro diagnosticato negli anni 2000 ed erano appunto sopravvissuti per più di 5 anni. Qual è l'assunto? Che certamente le terapie tra gli anni 70 e gli anni 2000 sono cambiate. Si fanno terapie meno aggressive, per esempio non si fa più quella che era in alcune forme di leucemia tipiche dei bambini, l'irradiazione del cranio che poi portava conseguenze sullo stato di salute importanti, così come le chemioterapie sono oggi meno aggressive, nel senso i dosaggi sono inferiori e sono più targate sulla persona e quindi meno effetti collaterali. Bene, sapete che c'è? Che non c'è nessuna differenza nello stato di salute di questi sopravvissuti, sia pur quelli trattati negli anni 90 in modo meno aggressivo. Quasi che avere un cancro in età pediatrica ti lasci quasi una specie di marchio depressivo che non beneficia di terapie meno invasive. La botta è grossa e ne senti le conseguenze anche nel tempo. Pietrangelo, Andrea da Modena ci scrive: sì? Può spiegare, buttafuoco, a un emiliano cosa sono le femmine pittate che ogni tanto nomina? Ah, ma è una citazione del grande Mario Merola, dallo Zappatore. Femmine pittate vuol dire donne in assetto tappinaro. Non so se si spiega meglio. Ah, beh, tappinaro mi sembra chiarissimo, Tu hai capito tappinaro, Mario? Non mi esprimo. Seduzione. C'hai 20 secondi per una notizia, Mario. Sì, 20 secondi. Tenete d'occhio dopo gli Stati Uniti, anzi prima, fuso orario, tenete d'occhio la Francia, perché oggi escono tre dati importanti: inflazione, produzione e fiducia dei consumatori. Ok, guarderemo la Francia. Intanto, per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa c'ha preparato oggi? Oggi una canzone per chi si ritrova improvvisamente imprigionato, messo da parte, in un luogo da cui però osserva meglio le altrui miserie. Mattia Bazzar, Vacanze Romane.